Quando ti ho vista allora andavi a camminare, non ho più resistito, ho detto presto sarai mia. Potevo immaginare l'imbarazzo e il tuo stupore, non appena mi hai guardato e hai detto sì. Sorbenti 20 prego, mi lasci continuare. Ho voglia di baciarla, non mi staccherò da lei. Lei che mi ha già sorriso, fosse te sul suo viso, ed io per lei qui sto morendo già. Ho ridimensionato le illusioni dentro me, e questa volta giuro che non mi fermerò. Ma so che può finire, non trovo altro da dire. Tu mi sorridi e dai, capito già. Volgiamo al mondo i nostri sguardi, tu ed io, inauguriamo il sogno, tu ed io. Appena inizia a schiudersi un barlume di infinito, recuperiamo l'esistenza qui ed ora, con l'autenticità di una parola che è un retrogusto forte di universalità. Quando ti ho vista allora uscivi per sognare, un atto di evasione dalla quotidianità. Ed io non saprei dire cosa apprezzai di più, il tuo modo di fare o i tuoi occhi blu. Volgiamo al mondo i nostri sguardi, tu ed io, inauguriamo il sogno, tu ed io. Appena inizia a schiudersi un barlume di infinito, recuperiamo l'esistenza qui ed ora, con l'autenticità di una parola che ha un retrogusto forte di universalità.